We fear the idea of personal change because we think that we have to sacrifice something to give something up. Eccoci qua con Giulia Crivelli. Ciao Giulia. Ciao, bentornato. Grazie. Ben ritrovata invece. Che cosa abbiamo ascoltato? Abbiamo ascoltato la voce di, tra l'altro ho imparato ascoltando la persona che l'ha introdotto, Joaquin, bisogna dire, non Joaquin, ma vabbè, qui Joaquin ovviamente è più alla spagnola. Bisogna fare un tutorial anche per Joaquin Phoenix. Era la sua voce e ha ragione Marta, era molto emozionato. Io l'ho trovato un discorso bellissimo. Ha parlato di tutto con tanto cuore, tanta testa, e mi è piaciuto moltissimo. Al posto della solita sfilza di ringraziamenti e oltre naturalmente al ricordo del fratello morto giovane probabilmente per droga, e ha anche parlato di questa sua grande passione per l'ambiente e l'impegno che tutti dobbiamo mettere. In questo brevissimo estratto diceva che non dobbiamo avere paura di cambiare, pensando che cambiare significhi perdere qualche cosa, fare un sacrificio. E tra l'altro lui è notoriamente vegano, difensore dei diritti degli animali, e infatti aveva un bellissimo completo di Stella McCartney, che è la più vegana ante litteram degli stilisti insomma di alta gamma. E poi devo dire che è bello, è emozionante a sua volta vedere queste star che siamo abituati a pensare come degli esseri invincibili, quasi inumani, che invece nel momento della premiazione o recitava benissimo o era realmente molto molto emozionato. Tra l'altro tutto vi invito bello. Veramente lo trovate in rete con anche i sottotitoli in italiano, e per me veramente anche solo a pensarci mi emoziono, perché l'ho trovato veramente tanto cuore e tanta testa. Allora, dove ci porti invece? Poi in per realtà il resto, siccome è stato un discorso molto politico e diciamo per tradizione i quotidiani americani si concentrano più, come ha fatto Marta, anche sull'elenco degli effettivi vincitori, su tutti i quotidiani c'è la foto del regista coreano che made history, cioè ha fatto la storia stabilendo questa novità di un film non americano che diventa il miglior film dell'anno, e quindi ne parlano tutti i quotidiani. Poi naturalmente i quotidiani americani parlano anche, Wall Street Journal, New York Times, USA Today, tutti delle vere prime primarie che ci saranno domani in New Hampshire, perché quello dell'Iowa era un caucus con tutti i problemi di modalità di voto e di calcolo che abbiamo visto. Quindi secondo molti sarà un face-off, cioè proprio un duello tra Bernie Sanders e Pete Buttigieg. Vedremo, insomma, domani. In realtà domani probabilmente non riusciremo a dare i risultati, li vedremo poi mercoledì. E poi naturalmente gli effetti del coronavirus, con questi numeri che hanno superato quelli della SARS, ma è un tema che poi attraversa naturalmente tutti i quotidiani. Irlanda, ci sono anche qui lunghi risultati delle elezioni. Sì, perché anche lì c'è molto conteggio manuale, sì. Ma The Irish Times mette in prima pagina Merrick McDonald, che è la leader del Sinn Féin, il partito che fu braccio politico dell'IRA, poi da molti anni ormai l'IRA non esiste più di fatto, quindi è diventato un vero e proprio partito politico, unico partito politico di centrosinistra dell'Irlanda, da sempre piccolo all'opposizione. Adesso probabilmente continuerà a essere all'opposizione, ma ha una percentuale molto alta. Gli ultimissimi sondaggi lo danno, gli ultimissimi conteggi lo danno addirittura come primo partito al 24,5%, e dietro con il 22,2 e il 20, i due tradizionali partiti conservatori. Sì, perché c'è la notizia di pochi secondi fa, tra l'altro è uscita, effettivamente questi sondaggi sono stati confermati. Quindi o fanno una grosse coalizione, ma credo non sia molto probabile, oppure sarà un'opposizione, ma un'opposizione veramente di peso. Gli altri due insieme hanno oltre il 40%, però insomma con il 22, il 24,5 si può far sentire la propria voce. Insomma, lo spettro è quello del referendum, esatto, per la riunificazione con l'Ulster, eccetera eccetera. Che naturalmente la Gran Bretagna non ha alcuna intenzione, interesse per ora a concedere questo referendum, però chissà, pesano anche le cose, gli andamenti politici di queste elezioni. Comunque, dicevi, Giulia? Prima pagina anche su Financial Times, sì. Perché lo chiama un risultato storico, appunto storica la vittoria del film coreano, ma storico anche questo risultato in Irlanda. E poi però la notizia economica è quella della ripresa probabilmente molto lenta che dovrebbe iniziare oggi dell'attività manifatturiera in Cina, che poi in realtà potrebbe restart, potrebbe far ripartire tutto quello che dipende dall'attività manifatturiera in Cina. Financial Times dà dei numeri molto interessanti, per esempio che la Cina, che è la fabbrica del mondo, anche se magari adesso c'è già qualcosa anche in Vietnam o altri paesi, ci sono settori in cui ha il 90% della, si può ricondurre alla Cina il 90% dell'attività manifatturiera di certi settori. Allora capite che non possiamo pensare che sia un problema di Pechino, è un problema per tutti. Qualche titolo sulla Spagna per chiudere? Sì, velocissimo. In Spagna invece abbiamo, oddio non mi ricordo più che cosa succede in Spagna, perdonami. Mi hai segnalato due eccoli titoli qua. Eccoli qua, no hai ragione, due titoli, in Spagna c'è grande preoccupazione per il nuovo budget dell'Unione Europea, perché dovrebbero essere tagliati di molto i fondi per l'agricoltura e i fondi strutturali. La Spagna li ha sempre usati molto bene, al contrario dell'Italia, nostro, i fondi strutturali, e anche quelli per l'agricoltura, essendo insieme alla Francia e all'Italia uno dei paesi dove l'agricoltura ancora ha un peso importante, c'è molta preoccupazione. E questo è un tema molto importante anche per noi, quello dei fondi per l'agricoltura. Grazie a Giulia Crivelli, ci risentiamo domani con Effetto Giorno e con Effetto Mondo, naturalmente, con Jacopo De Franchi in redazione, Valeria Bernardi regia. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata.